Adesso noi abbiamo il professor Curato, no, è un luogo comune, ma non c'è bisogno evidentemente di presentare Federico Curato, è uno dei classici. Purtroppo anche per sei sulla breccia da diversi anni e hai combattuto molto valorosamente, è vero, e quindi è uno degli storici con cui bisogna fare i conti, insomma, è vero, e quindi sono molto orgoglioso della scelta che ho fatto dei collaboratori. Dunque, allora, aspetti nazionalistici della politica estera italiana, dopo l'unità. Io devo cominciare a chiedere scusa agli organizzatori per non aver potuto mandare un riassunto come mi era stato richiesto. Si sente bene? Non dobbiamo avere l'altoparlante, no? Benissimo, scusa. Prego. Per un complesso di motivi non ho potuto farlo e quindi non ho potuto nemmeno prendere contatto con gli altri relatori. Quindi io ho steso la mia relazione su dei principi che pensavo di esporre. Ma invece l'esposizione che ha fatto il buon amico Valsecchi dimostra che tra me c'è una identità di vedute e quindi è inutile che io spieghi su quali concetti li ho fatti. Ho fatto la relazione perché li ha spiegati lui. Quindi passerò subito a dire che dal momento in cui astrattamente si parla di nazione, e faccio notare che parte da un paese, la Francia, che in quel momento ha unità linguistica, non è ancora stato rivalutato il bretone, la lingua doc, eccetera, eccetera, come capita oggi. E unità religiosa, dopo la cacciata dei protestanti in seguito alla revoca dell'editto di Nantes, gli ingenui, gli utopisti, potevano pensare che ogni nazione si potesse organizzare beatamente, tranquillamente, eliminando i sovrani. Ma non è così, perché le nazioni non sono come i pezzi di un domino che si poggiano una accanto all'altro. Ci sono infiniti fattori che complicano, quando si passa dall'astratto al concreto, la situazione. C'è il mescolarsi delle genti, basta ricordare l'Istria, la Transilvania, la Macedonia, eccetera, eccetera. Vi sono per gli stati delle questioni strategiche, dei posti, dei punti strategici. Avrebbe mai l'Austria abbandonato Pola per il principio di nazionalità che Pola era italiana? Mai. Vi sono delle questioni economiche e commerciali. Ricordiamo, per l'Austria Trieste è un porto fondamentale. Fiume lo diventa dopo la Prima Guerra Mondiale, è nota l'avvertenza che l'Alta Slesia dopo la Prima Guerra Mondiale. Poi vi sono le rivendicazioni storiche. Il Trentino, ecco proprio il Trentino, era una regione a cui gli Asburgo erano affezionatissimi. Direi che, per quello che riguarda almeno l'imperatore, il Trentino non era solo una questione di principio, era una questione ereditaria, era uno dei beni dei primi, non il primo, dei primi acquisiti dalla sua famiglia, ai quali non era disposto a rinunciare. Quindi questi elementi, la nazionalità e questi elementi che ho detto, si complicano al momento di passare nella realtà. E un esempio tipico è quello che capita al Parlamento di Francoforte del 1848-49. Io ricordo i giornali italiani che avevano esultato all'idea che i rappresentanti del popolo tedesco si riunivano nella Paulskirche, dopo un po' erano scandalizzati che i deputati tedeschi da un lato rivendicassero l'Alsazia o l'Holstein in base ai principi nazionali, però dall'altra parte volevano conservare il Trentino, la Posnania, Trieste in base ai diritti storici, ai trattati, alle bolle papali o imperiali, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che dal momento in cui si passa dalla teoria alla realtà, il nazionalismo, il principio di nazionalità scivola nel nazionalismo, è inutile che dica che cos'è, nel quale io includo anche quegli aspetti che si chiama colonialismo e anche imperialismo. Ci sono delle sfumature, ma tutte fanno parte di quel concetto che la mia nazione deve prevalere sulle altre. Allora parliamo subito di che cosa capita al nostro paese. Quando l'Italia nasce nel 1861, non ha ancora in sé tracce di nazionalismo. Esse, sul terreno concreto, io sono un uomo della realpolitik, essa, lungi dall'aspirare a territori contestabili, deve ancora liberare Venezia e riunire a sé Roma. Quindi non è in debito verso nessuno, anzi, casomai, è in credito. Quando nel 70 le due mete precedenti sono raggiunte, abbiamo in Italia un momento di riflessione. Mettere ordine in casa e rinviare ad altri tempi, magari ad un'altra generazione, il compito dell'unità o proseguire? La destra, al potere, è per la prima soluzione, la sinistra per la seconda. Ma il compimento dell'unità e la liberazione di Roma contengono due altri fattori suscettibili di far passare il principio di nazionalità in nazionalismo, fattori che altri paesi, sorti dal principio nazionale, non avevano avuto e non avranno, e li ha ricordati l'amico Valsecchi. Uno, essere considerato una grande potenza ed entrare a far parte del concerto europeo. Gli altri stati che nascono dal principio di nazionalità non entrano nelle grandi potenze. La Germania aveva già la Prussia, che era una grande potenza, quindi non c'entra, si amplia casomai. E secondo, il mito di Roma. L'Italia non era ancora sorta e già il ministro britannico a Napoli, Elliot, metteva in guardia il Foreign Office contro la formazione nel Mediterraneo di una grande potenza di 22 milioni di abitanti. Ma qui il termine grande è forse un termine onorario, riguarda la superficie, riguarda il numero degli abitanti, non è un termine giuridico. Pochissimo tempo dopo, invece, l'Italia è davvero una grande potenza, nel senso che il Congresso di Vienna dà a tale denominazione, cioè diviene una delle potenze che costituiscono, ha ricordato Valsecchi, il concerto europeo. Denis McMith, storico famosissimo in Italia, colloca al 1882 la data dell'ingresso dell'Italia nell'Areopago europeo. Ma non è così, e lo ha dimostrato in un'opera ricca di documentazione e di dottrina, il Cialdea. L'Italia, quando nasce, fa già parte del concetto europeo orientale per le questioni concernenti il vicino Oriente, quale erede del Regno di Sardegna, e ciò nonostante il mancato riconoscimento da parte dell'Austria. Dopo la guerra del 66 entra di pieno diritto nel concetto europeo tout court, in occasione della conferenza di Londra, convocata per risolvere il problema del Lussemburgo. Rattazzi ne diede notizia alla Camera l'8 maggio 1867 con giustificata fierezza. Ma vera ben altro, abbiamo detto, cioè il mito di Roma. Roma capitale ha un'aura che inebria, secondo l'espressione del Bonghi, e per questo, per non essere inebriati, Massimo D'Azeglio voleva che la capitale fosse Firenze. Ma sulla natura dell'ebbrezza, destra e sinistra non si accordavano. Per Quintino Sella, il trasferimento della capitale a Roma significava fare di questa città un centro di scienza, di pensiero laico, innovatore del mondo, cui da ogni parte si sarebbe potuto guardare con ammirazione e con vantaggio. La rinascita dell'Accademia dei Lincei fu l'espressione manifesta di questo suo alto intendimento. Ben diversa era la concezione che del trasporto della capitale a Roma aveva Giuseppe Mazzini. In uno scritto pubblicato un anno prima di morire sulla Roma del Popolo, in tre puntate, edito nel volume 92esimo delle opere, e 29esimo degli scritti politici, intitolato Politica Internazionale, il genovese traccia a grandi linee l'avvenire dell'Italia. Esso consiste nell'informare ogni atto della sua vita internazionale alla libertà e alla nazionalità, alla Roma dei Cesari che realizzò il concetto dell'unità politica, a quella dei Parti che realizzò parzialmente il concetto dell'unità morale, deve seguire la Roma del popolo che crede nel progresso, P maiuscolo, nella vita collettiva dell'umanità, con la I maiuscola, e nella divisione del lavoro tra le nazioni. L'Italia deve divenire il centro d'una lega degli stati europei minori stretta ad un patto comune di difesa contro le possibili usurpazioni di una grande potenza. Cito, l'influenza morale dell'Italia si eserciterebbe intanto, ingrandita da questa lega, nella direzione del futuro ordinamento europeo. Unità nazionali frammezzate possibilmente di libere confederazioni, protette nella loro indipendenza e barriera alle collisioni. Fine della citazione. E dopo aver tracciato un ampio quadro di queste unità, nel quale grande spazio è riservato agli slavi, considerati barriera tra la Russia e la Germania, dopo aver irrimediabilmente condannato a morte gli imperi turco ed austriaco, dopo aver additato alla missione dell'incivilimento da parte della Gran Bretagna, della Russia e dell'Italia l'Asia, così parlava dell'Africa, cito: nel moto inevitabile che chiama l'Europa a incivilire le regioni africane, come Marocco spetta la penisola iberica e l'Algeria la Francia, Tunisi, chiave del Mediterraneo centrale, connessa al sistema sardo-siculo e lontana 25 leghe dalla Sicilia, spetta visibilmente all'Italia. Tunisi, Tripoli e la Cirenaica formano parte, importantissima per la contiguità con l'Egitto e per esso e la Siria con l'Asia, di quella zona africana che appartiene veramente, fino all'Atlante, al sistema europeo. E sulle cime dell'Atlante sventolò la bandiera di Roma, quando, rovesciata Cartagine, il Mediterraneo si chiamò Mare Nostro. Fummo padroni, fino al V secolo, di tutta quella regione. Oggi i francesi l'adocchiano e l'avranno tra non molto se noi non l'abbiamo. Finisce la citazione. E dopo aver schernito quelli che chiamava i pratici, cioè quelli che noi chiamiamo i seguaci della Realpolitik, quindi anche me, quindi ai suoi occhi la destra, concludeva, cito: le grandi idee fanno grandi popoli, e le idee non sono grandi per i popoli se non in quanto travalicano i loro confini. Un popolo non è grande se non ha patto di compiere una grande e santa missione nel mondo. Chiusa la citazione. Vi è indubbiamente un senso della grandezza dell'Italia che in altri più modesti seguaci di Mazzini rasentava la megalomania. Il 22 gennaio 1871, era in pieno corso la guerra franco-prussiana, il deputato di sinistra Riccardo Sineo aveva rimproverato al governo di Firenze d'aver interpretato il concetto di neutralità nel conflitto franco-prussiano in modo troppo stretto dopo la caduta di Napoleone III, sì da aver impedito a Garibaldi, trattenendo lo slancio della gioventù italiana, di compiere tali progressi da far mutare le sorti della campagna. Non so se Molke era d'accordo. Al momento della riunione di Roma l'Italia al potere era però la destra, e quindi le grandiose idee della sinistra rimasero per il momento nel mondo platonico. La destra si occupava di rapporti con la Chiesa e di pareggio del bilancio, e dagli esteri veniva il Visconti Venosta, il quale nella politica internazionale portava un senso di equilibrio che era frutto di una reale conoscenza delle forze in gioco. Tre esempi lo chiariranno, di quelli che ho scelto io. Verso la fine del 1870, di fronte a manifestazioni ed a pressioni affinché l'Italia riprendesse Nizza, rilasciava una dichiarazione ufficiale in cui si affermava che il governo del re avrebbe considerato un'infamia ed una viltà approfittare dei disastri della Francia per riprendere una concessione fattale col consenso degli abitanti, quando essa, potente e vittoriosa, aveva appena aiutato l'Italia con uno sforzo supremo a conquistare la propria indipendenza ed a marciare verso l'unità. Due anni più tardi, il 14 maggio 1872, alla Camera, Visconti dichiarava: l'Italia è paga di aver compiuto i suoi destini, non chiede altro, non ha progetti ostili contro alcuno. Essa ha soprattutto bisogno di pace, di tranquillità, di sicurezza, per riordinare e per svolgere gli elementi della sua forza e della sua prosperità. Nel 1874, infine, il ministro austro-ungarico a Roma, Conte Wilfen, assicurava Andrassy che alla lettura della nota inviata da quest'ultimo il 24 maggio, relativa ad un non possumus in merito ad ogni ritocco delle frontiere austriache, in modo da dar soddisfazione alle rivendicazioni nazionali italiane, di cui il movimento irredentista si faceva il portavoce, Visconti Venosta rispose, o avrebbe risposto, che il movimento annessionistico era piuttosto fittizio che reale, che per Trieste esso aveva poca importanza e che per quanto riguardava il Trentino, i capi del movimento erano stati, dopo il 1866, sempre scoraggiati dai ministri del re d'Italia, tanto che in quel momento, 1874, sembravano convinti della inutilità dei loro sforzi e della necessità di rientrare nell'ordine legale. Politica di raccoglimento, dunque, di cui il viaggio di Vittorio Emanuele II a Vienna da Berlino, effettuato nel 1873, era stato l'espressione esteriore, e di cui la visita di restituzione fatta da Francesco Giuseppe addirittura a Venezia nel 1875 era stata la conferma. Problemi interni, rapporto col papato, tensione con la Francia per via dell'abolizione del potere temporale dei papi, costituivano le maggiori preoccupazioni dei componenti del ministero Minghetti. Le cose mutarono con la venta al potere della sinistra, 25 marzo 1876, non tanto per la scelta alla direzione degli esteri di un vecchio mazziniano ben noto ai suoi tempi alla polizia austriaca, Luigi Amedeo Melegari, quanto per la coincidenza di tale avvenimento con la riapertura della questione d'Oriente, guerra serbo-turca e successivo intervento della Russia. Si cominciò a parlare di annessione della Bosnia e dell'Erzegovina all'impero austro-ungarico ed in Italia i circoli redentistici si agitarono perché ne venissero da parte austriaca dati dei compensi sulla frontiera settentrionale ed orientale. Si cominciò allora, invece, a vociferare di compensi alternativi in direzione dell'Albania o della Tunisia, e con queste proposte ebbe inizio, dal di fuori, la spinta al nazionalismo italiano. È ben vero che queste voci suscitarono allora una viva indignazione, si era tuttora ancorati al principio di nazionalità. D'altra parte le voci restarono tali e non vi fu alcuna proposta concreta. Fu in quel momento che Crispi, presidente della Camera, diffidando delle capacità di De Pretis, di Melegari e del segretario generale del Ministero, il conte Tornielli, compì il famoso viaggio a Parigi, a Berlino, a Vienna e a Londra, che si risolvette, come noto, in un insuccesso. Nessuna delle sue proposte, notevole quella di alleanza italo-tedesca in funzione antifrancese ed anti-austriaca, venne accolta. Ed i compensi suggeriti da una parte venivano contraddetti dall'altra. Al compenso tunisino, sicuramente offerto dall'Austria-Ungheria, si opponevano la Francia e l'Inghilterra. A quello albanese, offerto dall'Inghilterra e forse dalla Germania, si opponeva l'Austria. Si venne così al congresso di Berlino, al quale il nuovo ministro degli esteri, il conte Corti, si recò nelle peggiori condizioni possibili per avere un successo che non fosse di stima. I documenti diplomatici editi recentemente dal Valsecchi e l'ampio studio della Baldelli mostrano chiaramente che la frase di Visconti Venosta, indipendenti sempre, isolati mai, è un bello slogan, ma niente di più. L'indipendenza portava di fatto all'isolamento, tanto più grave in quanto l'Austria-Ungheria, che è il paese al quale volevamo chiedere qualche cosa, era in una botte di ferro. Accordi con la Russia, controaccordi con l'Inghilterra e interesse della Germania a spingere verso Oriente garantivano il suo successo. Il conte Corti, al contrario, doveva lavorare isolato, mentre all'interno intempestive manifestazioni redentistiche nuocevano all'azione diplomatica. Pertanto dichiarò che egli non sarebbe andato a Berlino a mendicare cose che non avrebbe ottenuto, e mendicare, tra virgolette, ed a sentirsi rispondere da Andrassy, tra virgolette, che il territorio austriaco non si prende che con la punta della spada. Dopodiché l'Italia avrebbe dovuto o ingoiare l'offesa o far la guerra, nella quale nessuno ci avrebbe aiutato e sarebbe stata fatale per il paese. Quindi si limitò a chiedere ed ottenne, anche perché Andrassy, esponente dell'elemento magiaro della duplice, era consenziente, che la Bosnia e l'Erzegovina non fossero annesse dall'Austria, ma solo occupate ed amministrate, sia pure sine die. Sembrava niente, ma 30 anni dopo ci si accorgerà che era molto. Attaccato dalle sinistre, da Crispi in particolare e da una parte della destra, Bondi, il Corti finì col dimettersi proprio qualche settimana dopo il 24 ottobre, sia pure cogliendo a pretesto un discorso demagogico di Cairoli sul concetto di diritto d'associazione e di riunione che, se attuato, avrebbe gravemente minato la disciplina nelle forze armate. La delusione di Berlino alimentò la polemica contro il governo. Visconti Venosta, ora l'opposizione, il 31 gennaio 79 dichiarò che la politica estera della sinistra aveva peggiorato i rapporti con alcune potenze senza averle migliorate con altre. Ma attacchi più aspri vennero dalla sinistra stessa. Il 1 febbraio, da parte del deputato calabrese Mussolino, che parlò in senso anglofilo, turcofilo e russofobo, e il 3 febbraio da parte di Crispi, il quale accusò l'Italia di essere rimasta, dopo la caduta di Napoleone III, come il pupillo senza il tutore, rovesciando quindi sulla destra gli attacchi che Visconti Venosta aveva portato alla sinistra 3 giorni prima. La politica estera italiana era quindi ad un bivio. Che fare? Poiché l'irredentismo non presentava possibilità di sviluppo immediato, ci si cominciò a volgere verso l'Africa, ove avvenimenti gravi stavano accadendo in Egitto. Ne parlò alla Camera il Marcelli l'11 marzo 1880, attaccando l'irredentismo e le mire sull'Albania, che facevano perdere all'Italia l'amicizia dell'Austria-Ungheria, ed additando il continente africano come necessario oggetto dell'espansione italiana. Per quanto riguardava l'irredentismo, lo incalzò il giorno dopo il Visconti Venosta, che disse, cito, «Nel periodo di tempo che tenne dietro all'occupazione di Roma, l'amicizia ed il leale contegno di una grande potenza, così essenzialmente cattolica e conservatrice come l'Austria, ci giovò non poco a superare le difficoltà di quei giorni. L'Italia, da quando raccolse le sue speranze intorno alla Casa di Savoia e le affidò l'opera della sua redenzione, poté ricorrere ai mezzi rivoluzionari imposti dalle necessità e dalle circostanze, ma lo scopo a cui mirava era nei suoi caratteri essenziali uno scopo conservatore, quello di costituire uno Stato nella cui costituzione politica dovevano prevalere gli elementi temperati e moderatori, con un'antica dinastia il cui carattere storico e tradizionale è una grande guarentigia per l'interno e per l'estero. Chiude la citazione. E verso la fine dell'anno, destra e sinistra batterono il chiodo sull'espansione africana. Rocco De Zerbi, della destra giovane, rinfacciando al governo italiano di aver paura delle colonie, delle guerre, di tutto ciò che poteva creare imbarazzo, di tutto ciò che era espansione, il progressista Medorsen, Savini, proponendo che Italia e Francia si dividessero la missione civilizzatrice in Tunisia e in generale in Africa, ove disse, cito, c'è posto per tutti i popoli di iniziativa e di coraggio. Fine. Veniva di scena la Tunisia, già indicata, l'abbiamo detto, da Mazzini nel 1871 e menzionata dal Cattaneo in un articolo sul Politecnico del 1862 intitolato La reggenza di Tunisi e l'Italia, nel quale lo scrittore milanese additava quale pericolo per l'Italia sarebbe sorto se i francesi vi si fossero installati. E da Mauro Macchi, il quale in una seduta della Camera del 12 maggio 1864 l'aveva definita, cito, come un riflesso, una propaggine o d'un altro lembo d'Italia. Fine. A questa affermazione il ministro degli esteri del tempo, che era proprio il Visconti Venosta, aveva risposto che, cito, nessun avvenimento importante nella Tunisia poteva rimanere estraneo agli interessi della politica italiana. Chiudo. Non è qui il caso di entrare nella polemica che dura da un secolo se e come la Tunisia fosse stata offerta a corti al congresso di Berlino e da questi rifiutata. Probabilmente furono chiacchiere di corridoio. Comunque in Italia ci si alluse di aver l'appoggio inglese e ci si buttò in un'attiva e soprattutto chiassosa opera di penetrazione nella reggenza. Destra e sinistra giuravano sulla sincerità delle asserzioni francesi di non aver mire su di essa. Cito i nomi, Menabrea, Rudinì e Vassari per la destra, Cairoli, Zanardelli, Garibaldi, Bovio, Cavallotti per la sinistra. Solo l'ambasciatore a Parigi, il generale Cialdini, ne diffidava. Fino all'ultima ora il governo credette alle assicurazioni di Parigi, anche quando le truppe della Repubblica erano penetrate in Tunisia. Avevano detto che poi si ritiravano. Solo la notizia, giunta a Roma il 13 maggio, che il protettorato francese era stato imposto il giorno prima, il giorno innanzi alla Tunisia, aprì gli occhi a chi non aveva saputo vedere. Cairoli si dimise, sfuggendo così ad una penosa discussione alla Camera, ed il governo succedutogli, presieduto da De Pretis, con Mancini agli esteri, dovette affrontare anche l'indignazione suscitata dalla caccia all'uomo effettuata contro italiani a Marsiglia il 19 maggio 1881, ricordato Pierre Milza in un articolo sul Corriere della Sera qualche settimana fa. I cosiddetti Vespri marsigliesi. Nessun morto, qualche ferito, ma molto risentimento da parte nostra. La reazione fu violentissima, morale. Ai fatti di Roma del 49, a Villafranca, a Mentana, al Chamè, all'Orenoc, pronto nelle acque di Civitavecchia per portare via Pio IX, si aggiungeva Tunisi. Alcuni uomini della sinistra, Crispi, Petruccelli della Gattina, si scatenarono, più moderati, anche per le responsabilità di governo che avevano, De Pretis e Mancini, in questo allineati con la destra, Bonghi, Lanza, Perazzi. Da questa occupazione francese di Tunisi, che impedì all'Italia di compiere quella che riteneva fosse la sua missione civilizzatrice in quello Stato africano e che pose sotto il controllo francese un paio di decine di migliaia di migranti siciliani, mentre i francesi residenti nella reggenza erano poche centinaia, nacque il viaggio di Umberto I a Vienna, a cui erano stati favorevoli ancora prima del maggio 81 Cairoli, Cialdini e il nuovo segretario agli esteri Maffei di Boglio. Dopo lo smacco tunisino si unirono allora Mancini, Carlo Cadorna, Blanc, Sonnino, Masselli, Luigi Luzzatti, cioè un miscuglio di sinistra e di destra, mentre rimasero con Tai De Pretis, preoccupato delle ripercussioni che il viaggio aveva avuto sul mercato finanziario parigino di cui l'Italia aveva bisogno, lo Zanardelli e l'ambasciatore a Vienna, Conte di Robinò. Nacque l'anno dopo la Triplice Alleanza Italo-Austro-Germanica, non tanto diretta, come si è detto e ridetto, a salvaguardare le posizioni italiane nel Mediterraneo, della quale nel trattato non si faceva il minimo cenno, quanto l'istituto monarchico, gravemente compromesso di fronte all'opinione pubblica dagli insuccessi del 78 e dell'81, e diretto soprattutto ad evitare che una qualunque mossa antifrancese da parte nostra inducesse la Francia a risollevare la questione romana, vera e propria spada di Damocle sul capo del nostro paese. La Francia, che giocava le sue carte in modo spregiudicato, era disposta ad appoggiare in Italia, come farà presso poco nello stesso tempo in Spagna, le reazioni clericali e la sovversione repubblicana. Tutto ciò ebbe grande ripercussione sulla politica estera italiana. L'irredentismo ufficiale, che il Cairoli aveva apertamente appoggiato, prese fine e rimase nelle mani dell'opposizione, di Imbriani, che ne divenne il leader più prestigioso, di Borio, di Cavallotti. I più importanti uomini della sinistra ufficiale della destra si schierarono per la Triplice, De Pretis e Mancini, ovviamente, e poi Cairoli, Crispi, Zanardelli, Nicotte, Blanc, che appartenevano alla sinistra, Minghetti, Iacini, Bonghi, alla destra. Solo che nella seconda metà dell'82 avvennero l'arresto e l'impiccagione del triestino Oberdan, e tale decisione austriaca peserà assai sul futuro dell'alleanza, perché l'irredentismo ebbe il suo martire ed il nome di Oberdan divenne una bandiera. Se l'azione del governo trovava un ostacolo insormontabile nella direzione, cioè verso la politica delle nazionalità, rimaneva quello dell'espansione mediterranea. Se Tunisi era perduta, rimaneva l'Egitto, sempre più in preda a grave travaglio interno. Ma anche l'Egitto rimase un miraggio per l'Italia. Il recente studio già menzionato della Baldelli ed uno studio anteriore di Talamo hanno mostrato che tutto quanto si era detto e scritto sui motivi della mancata occupazione congiunta anglo-italiana dell'Egitto era un velo pietoso. Non già il timore della Francia o il mancato appoggio austro-tedesco o il problema finanziario o l'impreparazione militare o l'imbarazzo di Mancini a smentire quanto l'Italia aveva proposto pochissimo tempo prima in una conferenza tenuta a Costantinopoli, che sono gli argomenti che sono stati via via addotti, avevano costituito un impedimento. Tutti questi motivi esistevano, ma erano il contorno. Il piatto forte era che gli inglesi non ci volevano né nel 78, quando si parlava dei compensi, né ci vollero nell'82. Mancini, quando la situazione stava precipitando, chiese a Lord Granville di partecipare ad un'occupazione mista con gli inglesi, ma il nobile Lord prima rispose adducendo un precedente impegno con la Francia e dalle insistenze italiane ribatté che un allargamento all'Italia del duo anglo-francese avrebbe autorizzato altre potenze a chiedere di partecipare, il che era vero, e Lord Granville aveva certamente in mente la Russia. Ma che l'accordo anglo-francese esistesse è dubbio, perché l'intervento da parte inglese fu unilaterale, la Francia rimase esclusa e la questione egiziana avvelenò i rapporti tra Francia e Inghilterra per oltre un ventennio. Lo smacco, il terzo subito dai governi di sinistra in 4 anni, provocò violenti attacchi in Parlamento al Mancini da parte di Crispi, di Sonnino, di Minghetti, di Marselli. Non era mancato da parte di Crispi un paragone fra il coraggio dimostrato da Cavour quando si era avventurato in Crimea e la mancanza di coraggio dimostrata dall'Italia nella questione siciliana. La differenza però stava che mentre nel 1855 l'Inghilterra aveva chiesto l'intervento sardo, aveva negato quell'italiano nell'82, ma questo Crispi lo ignorava. Non mancarono naturalmente coloro che approvarono ciò che fu chiamato il rifiuto di Mancini e vi furono deputati di tutto lo schieramento e di tutte le regioni italiane. Ma particolarmente notevole fu quella attuata un anno dopo dal deputato Cavalletto, vecchio cospiratore veneto, già ospite delle prigioni austriache, il quale respinse in blocco il colonialismo, biasimando il collega Brugnalti che aveva inneggiato alle imprese francesi nel Madagascar, nel Tonchino, nell'Annam, in Tunisia e da quelle inglesi in Egitto. Cito: «Ma per Dio, un italiano non deve ricordare il diritto delle nazioni? Noi siamo risorti a nazione per il diritto nazionale. Io non so quale sia il diritto che spinge queste potenze strapotenti ad invadere i territori di altri popoli, di altre nazioni. È un diritto internazionale che io non conosco». Fine della citazione. Parole queste che respingevano la tesi della missione di Roma in particolare, dell'Europa in genere, enunciate da Mazzini un decennio prima. Era il puro pensiero del diritto delle nazioni quello che sgorgava dalle labbra del vecchio esponente del moderatismo veneto. Ma ormai la sinistra al potere era su un'altra strada e fu quella del colonialismo che si imboccò. È inutile che io ricordi come l'apertura del canale di Suez spingesse la compagnia Rubattino ad acquistare la baia d'Assab sul Mar Rosso nel 1869, baia venduta poi allo Stato italiano nel marzo dell'82, tra i dubbi e le proteste di 2 deputati veneti, Parenzo e Cavalletto, che si acquietarono soltanto quando Mancini assicurò loro che l'Italia vi andava a scopo di civiltà e non di conquista. Poco dopo, il dominio egiziano, che allora arrivava sino all'equatore ed includeva molte località lungo il Mar Rosso e sul Golfo di Aden, crollava sotto i colpi dei mahdisti ed il governo italiano faceva occupare il 25 gennaio dell'85 Beilul e il 5 febbraio successivo Massawa. Ai parlamentari, che sorpresi di questa conversione al colonialismo d'un uomo che tante volte dai banchi della Camera l'aveva condannato, il Mancini, 2 giorni dopo l'occupazione di Beilul, a chi gli ricordava che il posto dell'Italia era nel Mediterraneo, rispose che appunto nel Mar Rosso l'Italia ne cercava le chiavi e parlò di ricerca di una via che avrebbe ricondotto l'Italia ad un'efficace tutela contro ogni nuovo turbamento del suo equilibrio. Le cause di questo rovesciamento di posizione, rovesciamento che diede l'avvio al nazionalismo sotto forma di colonialismo, vanno ravvisate nel fatto che in quelle settimane è in corsa a Berlino una conferenza di 16 stati, la quale ebbe come risultato pratico la spartizione dell'Africa. Apertasi il 15 novembre dell'84, si chiuderà il 26 febbraio dell'85. Dovete fare impressione sul Mancini il fatto che un anticolonialista ben noto come il principe di Bismarck si fosse convertito anche lui all'espansionismo al di là del mare E dovete temere che se anche questa volta l'Italia non avesse avuto qualche cosa, una parte del Parlamento italiano l'avrebbe attaccato senza dargli quartiere. Che così fosse risulta dal fatto che quando gli avversari dell'impresa sul Mar Rosso dichiararono la loro ostilità, egli sostenne di aver agito su pressione dell'Inghilterra, la quale temeva che i francesi, già padroni di Obok, si installassero in quelle due località che gli egiziani stavano per abbandonare. Tale tesi, ripetuta in un noto libro coevo del Chiala, è stata smentita in tempi recenti dal Giglio, il quale, sulla scorta di documenti diplomatici italiani resi finalmente accessibili, ha dimostrato che alla fine del 1884 fu il Mancini a sollecitare l'appoggio dell'Inghilterra per poter occupare Massao, agitando lui lo spauracchio dell'eventuale occupazione francese. Occupazione a cui Lord Granville sembrava essere indifferente. E solo dopo ripetute richieste ne ottenne l'assenso. L'occupazione da Massaua si estese nelle settimane successive lungo la costa fino ad Archico. Tra gli oppositori in Parlamento, i più risoluti furono Crispi e Baccarini, due uomini della pentarchia. Il primo perché, lo disse già il 27 gennaio dopo l'occupazione di Beilul e lo ripete poi, merito dell'espansione italiana doveva essere il Mediterraneo. Il secondo, perché, lo disse a Bologna il 22 novembre dell'85, l'Italia si difendeva lungo le Alpi e nei due mari che ne costituivano i polmoni. Ma notevole per l'impostazione diversa fu anche l'opposizione del socialista Andrea Costa, il quale nella seduta della Camera del 7 maggio dell'85 sostenne che l'Italia voleva il miglioramento delle sue condizioni economiche e vedeva con orrore sprecato il patrimonio pubblico nelle facili conquiste delle terre africane. Il Costa dava così inizio alla politica di una nuova sinistra, quella socialista, ostile ad ogni espansione coloniale, antinazionalista, internazionalista. Accanto ai tre parlamentari testé menzionati, altri opposero vari argomenti per contrastare l'espansione coloniale. Caracciolo di Bella e Camporeale nel marzo e nel maggio dell'85, perché non ne vedevano l'utilità e quindi li imprese uno sperpero di quattrini. Fortis nel giugno dell'86, perché ne vedeva l'incertezza e la sterilità e lamentava che ciò andasse a scapito dei confini nazionali. In generale, tutta l'estrema sinistra divide un tradimento, l'estrema sinistra divide un tradimento degli ideali di nazionalità ed un tentativo di distogliere l'attenzione dei problemi interni del paese, dai problemi interni del paese. A questo punto alcuni storici si sono posti il quesito. L'occupazione di Beilul e di Massaua era fine a se stessa un'improvvisazione, tanto per accontentare una parte dell'opinione pubblica, oppure, come pensano il Giglio e lo Zaidi, essere all'inizio di una più vasta occupazione che includeva Zeila e Harar? La domanda resta senza risposta, perché nessun documento è là ad aiutarci. E d'altra parte, il gabinetto De Pretis cadde il 17 giugno successivo, il Mancini cessò di essere ministro. Comunque si può accettare l'affermazione del Giglio, che l'imperialismo italiano porta un nome, Mancini. D'altra parte, dinanzi al fatto compiuto, anche alcuni degli oppositori cessarono di esserlo. Già dal maggio dell'85 Crispi dichiarava che pur essendo contrario all'avventura nel Mar Rosso era necessario restarvi, essendovi impegnata la bandiera nazionale. E questo spirito patriottico, che alcuni scrittori di oggi chiamano patriottardo, si rivelò assai forte dopo l'episodio di Dogali. In piazza si ebbero manifestazioni anticolonialiste, ma in Parlamento Crispi, Paccarini, Fortis, Bovio, Cavallotti, Bussi, per non citare i più significativi nomi degli esponenti della sinistra, superando talora contraddizioni, esaltando i valori dell'onore e della bandiera, costituirono un'unione sacrée e votarono le spese per l'invio di rinforzi, travolgendo la opposizione impersonificata da Costa, che pronunciò in tale occasione la frase che i suoi né un uomo né un soldo, 3 febbraio dell'87. Fu quella la svolta decisiva della politica estera italiana. Il De Pretis, oggetto di tanti attacchi, rimaneva la politica estera succeduta a Mancini, il conte di Robillon, il quale però nelle more della lunghissima crisi ministeriale, riusciva a modificare radicalmente la portata della triplice del 1882, che gli aveva giudicato inutile perché non proteggeva gli interessi mediterranei dell'Italia. Infatti, approfittando della crisi bulgara e del movimento boulangista, che facevano sorgere inquietudini sul mantenimento della pace in Europa e pertanto valorizzavano il peso dell'alleanza italiana nei confronti dell'amico e degli alleati, il di Robilan riusciva a inserire ufficialmente la politica di espansione mediterranea dell'Italia mediante uno scambio di note effettuato con la Gran Bretagna nel 1887, in cui si garantiva l'appoggio inglese per il mantenimento dello Stato quo. E 8 giorni dopo, col primo rinnovo della triplice, si assicurava l'appoggio militare tedesco nel caso in cui un'invasione francese del Marocco, della Tripolitania e della Cirenaica avesse costretto l'Italia ad attaccare la Francia. In tal modo l'alleanza difensiva scattava, ma non solo in caso di attacco diretto, come nel trattato dell'82, ma anche indiretto. Inoltre il di Robilan si assicurava l'appoggio del governo di Berlino nel caso in cui l'Italia, alla fine della vittoriosa guerra, avesse richiesto alla Francia territori non solo coloniali, ma anche metropolitani. Con lo stesso trattato, l'Italia e l'Austro-Ungheria si bloccavano reciprocamente l'espansione nella penisola balcanica, stabilendo che i vantaggi che una di loro avesse ottenuto al di là dello status quo del momento sarebbero stati ottenuti anche dall'altra parte contraente. Non era detto a spese di chi tali compensi sarebbero stati ottenuti, non era detto che il Trentino non avrebbe mai potuto essere un compenso per l'Italia, non era detto che il passaggio della Bosnia-Herzegovina e del San Giacarto da occupazione ad annessione avrebbe dato luogo a compensi all'Italia. Nel corso delle trattative questo era stato detto. E rimarrà un problema del... Nei mesi più tardi, la Spagna entrava nell'orbita della triplice, tramite il corpo diretta ad impedire la mainmise francese su... Questa serie di accordi consacravano la fine della politica della nazionalità da parte del governo italiano. Roma si metteva nella gara imperialistica delle grandi tutto, assumeva una totale posizione antifrancese, in quanto teoricamente veniva messa in piedi la rivendicazione di inizio della Corsica. In realtà però essa non fu attuata e la Francia lo ignorò perché il testo del trattato rimase segreto fino al 1920. Crispi, succedendo nella direzione del governo, nell'estate del 1937 alla morte di un'azione che portava l'Italia, che poneva l'Italia in una botte di ferro, frase attribuita al di Robilan. E Crispi la rinforzò ulteriormente con un accordo anglo-italiano 12-16 dicembre dell'87 che tutelava lo status quo nel Mediterraneo orientale contro ogni cedimento turco alla Russia, stipulando con la Germania nel gennaio dell'88 una convenzione militare che prevedeva l'invio di 200.000 italiani aderendo il 15 maggio dello stesso anno all'alleanza austro-tedesco-romena. Insomma, il Crispi si buttò in pieno nella Grand Politik, portando la tensione con la Francia, con cui si inaugurò un'aspra guerra doganale, al punto di rottura. Egli dichiarò il 12 maggio dell'88 alla Camera, cito, «Le colonie sono una necessità della vita moderna. Noi non possiamo rimanere inerti, altrimenti saremmo colpevoli di un grande delitto verso la patria nostra». Imperché chiuderemmo per sempre le vie alle nostre navi ed i mercati ai nostri prodotti. Le grandi nazioni hanno bisogno di affermarsi nelle varie parti del mondo per la protezione dei commerci e per l'esercizio di quella civiltà al trionfo della quale siamo obbligati di prendere parte. Citazione finita. Ed in attesa che si verificasse l'occasione di usare gli eccellenti strumenti diplomatici lasciatigli in eredità dal di Robilan, si buttò anima e corpo nella penetrazione italiana da giocando sulle rivalità tra i vari ras dell'Abissinia e puntando le carte sulle ambizioni di Menelik, ras dello Shoah, il quale, grazie all'aiuto italiano, diventò, dopo la morte di Giovanni IV, negus negesti dell'impero. Fu in quel periodo che gli italiani si spinsero sull'altopiano, occupando Keren e l'Asmara. Poche settimane prima dell'occupazione dell'Asmara e di Keren, Menelik aveva firmato col rappresentante italiano, conte Antonelli, il trattato di Uccialli, in base al quale Crispi, nell'autunno dell'89, quindi 4 mesi dopo, comunicò ai firmatari dell'atto generale di Berlino del 26 febbraio dell'85 l'avvenuto protettorato italiano sull'Etiopia. In tale veste il governo di Rudini, succeduto a quello di Crispi, nel marzo e nell'aprile del 91 regolò con quello britannico le frontiere dell'Etiopia con l'Uganda, con l'Africa orientale inglese, il Kenya di oggi, e con il Sudan. Precedentemente, durante il governo di Crispi, si è stabilito il protettorato italiano sui sultanati di Obbia e dei Migiurtini sull'Oceano Indiano, febbraio e aprile dell'89. Quindi la sfera di influenza italiana si estendeva dal Mar Rosso all'Oceano Indiano. Sembrava realizzato il sogno del Khedive Ismail di sottomettere il Corno d'Africa, come si chiama oggi, ad una sola potenza del Sestania, sogno che si era infranto contro la forza degli eserciti etiopici. Ma esisteva veramente il protettorato sull'impero etiopico? Quando Menelik più tardi tentò di sottrarsi all'impegno, dichiarando di essere stato ingannato e aiutato dai russi e dai francesi, si ribellò, da noi fu detto che il rappresentante italiano, l'Antonelli, era caduto vittima di un imbroglio dell'interprete di lingua amarica, in quanto il vocabolo italiano aveva una portata più ampia, dovrà, di quella del testo amarico, icciola cioal, che significa potrà. Ma un recente studio del Giglio, condotto sui documenti diplomatici italiani, sostiene che in realtà fu il Crispi che ingannò il Negus, dando un significato all'accordo che mai né il Negus né Antonelli avevano avuto intenzioni di dargli e che pertanto l'imbroglio era partito da Roma e non dall'Africa. Comunque sia, nel periodo 89-96 l'espansionismo italiano in Africa dilagò, soprattutto nel periodo in cui Crispi fu al potere nel Tigre. Crispi cercò pure di insinuarsi nel Marocco, mettendo in sospetto la Spagna, che finì col temere che l'ingerenza dell'alleato italiano in quel territorio, che essa considerava destinato a diventare suo, fosse non meno pericoloso di quella del concorrente francese. Nel periodo in cui due diversi presidenti del Consiglio e ministri degli esteri ressero la politica italiana tra i vari ministeri Crispi, cioè il di Rudini, Giolitti, Brin, l'azione italiana subì un parziale rallentamento. Il di Rudini, rinnovando la triplice alleanza il 6 maggio del 91, lasciò cadere l'impegno tedesco di aiuto militare nel caso di penetrazione francese nel Marocco. Ma nell'Africa orientale il governo italiano non riuscì a concludere niente di concreto, né ad accordarsi con Menelik né a buttarlo giù a Rassalul, Rasman Gasha, e finì che scontentando tutti, soprattutto nel periodo in cui Brin resse il dicastero degli esteri, essi si accordarono con anni, è impossibile. Dai banchi dell'opposizione Crispi tuonava il 17 maggio del 91. Noi siamo in un tempo in cui la sola parte del mondo che resta da aprire la civiltà è una gran porzione dell'Africa. Non commettiamo l'errore, ora che siamo una grande nazione, di lasciarci prendere dagli altri quello che possiamo prendere e da cui anche noi abbiamo diritto. Fine della citazione. Ormai la maggior parte come il buon l'articolo 5 dello statuto per quanto concedeva il controllo parlamentare sulle modificazioni territoriali dello Stato, ormai la maggioranza della Camera, dicevamo, era per un motivo o per l'altro restia ad abbandonare l'impresa, al compimento della quale si erano convertiti persino Ferdinando Martini, Sonnino e Cavalletto. Quando Crispi tornò al potere il 15 dicembre del 93, la situazione in Abissinia era molto grave. Il Negus aveva denunciato il trattato di Tanzania precedente, ma Crispi non era disposto ad abbandonare quanto aveva ottenuto, in qualunque modo l'avesse ottenuto. Fu la guerra, una guerra condotta male, più politicamente colonialismo, giacché il dio di Ni, succeduto a Crispi, con molta dignità riuscì a salvare l'onore delle armi, a conservare la colonia eritrea ed a pagare un'indennità di guerra sotto forma di rimborso spese per i prigionieri. Naturalmente il discusso protettorato italiano sull'Etiopia cessò di esistere. Nel periodo 82-96, durante il quale molte delle energie italiane furono spese nel tentativo di creare un dominio coloniale nell'Africa orientale, venne meno da parte del governo italiano ogni interesse all'altro polo della politica estera italiana, cioè il mantenere vivo il principio di nazionalità nei confronti delle terre redente, principio ovviamente già messo in sordina con la formazione della Triplice Alleanza, dato che l'Italia ufficiale non poteva mettersi in urto con l'Austria-Ungheria, l'unica grande potenza che non contrastava la sua espansione lungo il Mar Rosso e l'Oceano Indiano, sia per addirittura annullava la pressione italiana sulle Alpi e lungo le coste dell'Adriatico. Questo spiega l'atteggiamento negativo, talora duro, tenuto dal governo italiano nei confronti di ogni manifestazione redentistica anti-austriaca, di cui, a titolo di esempio, ricorderemo alcune delle più significative. La repressione delle manifestazioni avvenute in Italia durante il processo e soprattutto dopo l'esecuzione capitale di Overdan, dicembre 82, gennaio 83, lo scioglimento del comitato Trento-Trieste, luglio dell'89, lo scioglimento dei circoli, comitati e nuclei intitolati a Overdan, agosto del 90, la destituzione del ministro delle finanze Seismis Doda e la sospensione delle funzioni del prefetto di Udine, Rito, settembre del 90, per aver entrambi presenziato a Udine ad una manifestazione nel corso della quale erano state pronunciate frasi gravemente compromettenti i rapporti italo-austriaci senza protestare. Le ultime, le più clamorose, avvennero durante la presidenza di Crispi, non perché questi, come è stato detto e scritto, progettasse una dittatura, ma perché il paese si trovava sempre maggiormente in urto con la Francia, la quale fortificava Biserta e sembrava volesse tramutare il protettorato sulla Tunisia in annessione, e con la quale avvenivano incidenti clamorosi, quale l'eccidio di operai italiani a Egmore, 17 agosto della notizia, mai saputo se erano 30, 40, 50 gli assassinati italiani, per rivalità di lavoro, ma secondo un recente studio di Per Milzà, anche per bestiale scoppio di odio razziale. Irritò l'Italia il fatto che tutti gli imputati venissero assolti, come irritò la Francia l'assassinio del Presidente della Repubblica Carnot ad opera di un anarchico italiano, giugno del 94. D'altra parte, persino la Germania post-bismarckiana, dopo un breve affare con l'Inghilterra, sembrava propensa a schierarsi contro quest'ultima ed a flirtare con una Francia divenuta più forte e più aggressiva dopo la conclusione dell'alleanza con la Russia. Non si poteva dunque mettersi in conflitto anche con l'Austria-Ungheria. Il pensiero di Crispi era stato ben sintetizzato, anche se un po' bruscamente, come era nel suo stile, nel discorso di Firenze dell'8 ottobre del 90, quando aveva detto che, cito, circondati in apparenza dalla calda poesia della patria, l'irredentismo non è meno oggi il più dannoso degli errori in Italia, finisce la citazione, perché esso, spinto alle estreme conseguenze, ci avrebbe messo in urto non solo con l'Austria-Ungheria, ma con l'Inghilterra per Malta, con la Francia per la Corsica e con la Svizzera. L'Italia avrebbe avuto la guerra da essi istigata e l'avremmo avuta disarmati o male armati, cioè le correnti che da un lato, alimentando il irredentismo, aumentavano il pericolo di un conflitto, dall'altro erano, con evidente contraddizione, la sconfitta di Adua segnò la fine di un periodo di espansione nazionalistico, colonialistico, imperialistica che dir si voglia, ridimensionò le ambizioni italiane e ne modificò, se non nella forma, certo nella sostanza, lo schieramento internazionale. Ridotte le pretese sull'Africa orientale alla conservazione dell'Eritrea, essa rivolse un'altra volta gli sguardi al Mediterraneo. Però dovete fare i conti con la Francia, contro cui la Triplice, agli occhi di Visconti e Venosta, un'altra volta alla direzione della politica estera italiana, non serviva granché. Fu riconosciuto il protettorato francese su Tunisi, ma fu salvata la cittadinanza italiana ai nostri emigrati nella reggenza. e furono regolate minori questioni con soddisfazione dei nostri interessi, ospedali, scuole, commercio con la Tunisia, diritti di pesca, ma in cambio furono eliminati privilegi in contrasto con l'esistenza del protettorato. Fu chiuso l'ufficio postale italiano, fu venduta la proprietà della ferrovia, fu abrogata la giurisdizione consolare italiana, da tempo del resto sospesa, novembre 96. E posta fine alla guerra delle tariffe, concludendo un onesto accordo commerciale nel novembre del 98. Più tardi, 4 gennaio 1901, ufficialmente è la vera data, poi fu retrodatato per motivi tecnici, i trattati molte volte non sono stati conclusi il giorno che è segnato sopra, sono stati conclusi o prima o dopo per trucchi che adesso sarebbe lunghissimo spiegare, e poi variano volta per volta. Più tardi, il 4 gennaio dell'1, sempre auspici Visconti Venosta, fu concluso un accordo segreto con l'ambasciatore francese Barrère, in base al quale l'Italia rinunciava definitivamente alle aspirazioni sul Marocco e la Francia rinunciava a quelle sulla Tripolitania e sulla Cirenaica. E due anni più tardi, 30 giugno del 2, il ministro Prinetti, esponente della destra lombarda, otteneva che l'Inghilterra, il 12 maggio, e l'Austria-Ungheria il 30 giugno successivo rilasciassero per iscritto dichiarazioni che accordavano mano libera all'Italia sui due vilayet turchi, e lo stesso 30 giugno realizzava con la Francia quella specie di trattato di riassicurazione in base al quale non solo si confermavano gli accordi del 1901, ma ognuna delle due parti riconosceva all'altra il diritto di appropriarsi delle regioni attribuite senza che l'azione di una fosse condizionata dall'azione dell'altra. Ognuna delle due era libera di agire quando voleva. Infine, e questa era la parte più importante, si dichiarava che in caso di aggressione non provocata di altre potenze nei confronti della Francia, l'Italia sarebbe rimasta neutrale. Parigi otteneva in tal modo la certezza che la Triplice è un trattato difensivo e non offensivo, senza pretendere, come aveva fatto nel decennio precedente, che l'Italia uscisse dal raggruppamento costituito con gli imperi centrali, o che l'ambasciatore francese a Roma, allora il Billot, prendesse visione del testo del trattato, che era segreto. La forma era salva, ma iniziava lo svuotamento della Triplice, leggermente chiamato dal cancelliere germanico Giro di Walzer. Le mire su quella che fu chiamata la quarta sponda avranno un'enorme importanza per il nazionalismo italiano e ne mineranno la vecchia alleanza, anche perché altri fattori muteranno la situazione internazionale, quali l'entente cordiale anglo-francese, la spartizione progettata del Marocco fra Francia e Spagna, la rivalità navale anglo-tedesca, il protettorato spirituale e militare della Germania sull'impero ottomano, tutte cose rendevano più appetibile per l'Italia l'amicizia franco-britannica e quella austro-tedesca. Prima però di parlare della nuova politica di espansione dell'Italia nel Mediterraneo, nell'Adriatico e nella penisola balcanica, merita che io ricordi un tentativo di penetrazione italiano in Estremo Oriente, effettuato cercando di prendere parte a quella spartizione della Cina in zone di influenza che avevano appena fatto la Germania, la Russia, la Francia e la Gran Bretagna. La Baia di Samu e la provincia del Zhejiang furono le zone su cui il governo di Pelù posò lo sguardo. Non si sa bene se per ragioni di prestigio o per volontà della monarchia, dato che gli interessi economici del nostro paese in quella parte del mondo erano pressoché inesistenti. L'azione, male condotta dal ministro degli esteri Cannavaro, peggio eseguita dal diplomatico De Martino, sabotata da Lord Salisbury, finì con una grossa umiliazione cui pose fine il Visconti Venosta, lasciando cadere la richiesta fatta dal suo predecessore, insensibile alle proteste del nostro nuovo rappresentante a Pechino, Marchese Salvagoraggi, il quale sosteneva che il prestigio dell'Italia sarebbe stato ridotto. Una parziale rivincita fu ottenuta poco dopo quando, domata la rivolta dei Boxers, il Salvagoraggi, scampato alla direzione della legazione italiana nella capitale cinese, ottenne, agendo di propria iniziativa, una concessione a Tianjin. L'iniziativa fu poi approvata dal Prinetti e la concessione rimase all'Italia, inutilizzata, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo detto che la sconfitta di Adwa e l'abbandono dell'Etiopia spinsero nuovamente il governo italiano verso il Mediterraneo e che la progettata espansione in Tripolitania di Cirenaica lo costrisse ad avviare accordi con la Francia. Dobbiamo raggiungere che simultaneamente lo sguardo si volse all'Adriatico e dalla penisola balcanica, rimettendolo in urto con l'Austria. Il primo problema che sorse fu l'Albania e questo interessamento fu la conseguenza di un riavvicinamento austro-russo che la Russia preparava per avere le mani libere in Estremo Oriente e legare, almeno parzialmente, le mani all'Austria. Fu l'accordo Burajev-Golukovsky del maggio 97 che prevedeva una certa soluzione dei problemi balcanici nel caso in cui in questa penisola fosse stato impossibile mantenere lo status quo. Visconti Venosta, allarmato di quanto si era progettato per l'Albania, cioè la creazione di un principato indipendente, riuscì nel novembre del 97 ad ottenere dal ministro austriaco l'impegno che nulla sarebbe stato deciso senza accordo preventivo con l'Italia. I termini esatti dell'accordo non ci sono ben noti, in quanto esso fu puramente orale e quando i due ministri, 3 anni dopo, decisero di mettere per iscritto quanto era stato concordato, lo misero in termini che non coincidevano. Tuttavia, su proposta di Golukovsky, l'impegno fu sganciato dagli accordi della Triplice Alleanza e pertanto era destinato a durare anche se questo raggruppamento diplomatico avesse preso fine. Siamo nel febbraio dell'1. Mentre il nazionalismo dunque animava la politica estera italiana, tornava a rivendicare il principio di nazionalità. Il primo esempio si ebbe nello stesso 97, allorquando la flotta italiana, insieme con quella di altre potenze, bombardò Akrotiri, nell'isola di Creta, insorta contro i turchi, per costringere i volontari greci ad abbandonare l'isola. In Parlamento i deputati dell'estrema, appoggiati anche da colleghi moderati, quali Crispi, Pessina e Carducci, insorsero contro questa presa di posizione legalitaria di Visconti Venosta, senza alcun esito per il momento. Quando poco dopo il governo di Atene attaccò la Turchia, volontari garibaldini andarono a combattere a fianco dei greci e quando Atene perdette la guerra, il governo italiano questa volta si diede da fare affinché le condizioni del vincitore fossero mitissime, dicembre 97. Quando divenne ministro degli esteri il Cannavaro, questi appoggiò la nomina del principe Giorgio di Grecia ad alto commissario nell'isola di Creta, ottobre 98, il che significò la preparazione del distacco di Creta dall'impero ottomano e la sua riunione alla Madre Patria, il che si verificherà 15 anni dopo. Possiamo dire quindi che dalla fine del secolo scorso la politica estera italiana corre su un doppio binario, da un lato continua, con ritmo più moderato e su un settore diverso da quello dell'Africa orientale, la politica nazionalistica, e dall'altro risorge la politica delle nazionalità. Quest'ultimo avvenimento è la conseguenza del cambiamento avvenuto all'interno del paese, negli ultimissimi anni del secolo scorso, e dell'avvento al trono di Vittorio Emanuele III, di sentimenti anti-austriaci, anche perché non perdonava Francesco Giuseppe d'essere venuto meno alla cortesia internazionale non restituendo la visita fatta da suo padre a Vienna, nel 1881, e ciò per un riguardo verso il papato, ente che il nuovo re d'Italia non amava. Il movimento irredentista guadagnava terreno, al defunto Imbriani succedette Barzilai, pure il socialismo in aumento non amava la duplice monarchia, anche se per motivi ideologici che nulla avevano a che vedere con l'irredentismo. A sua volta una nuova destra, tra cui spiccherà ben presto Albertini, che ha a sua disposizione il Corriere della Sera, si schiera su posizioni ostili alla Triplice. Per il governo Giolitti, salito al potere nel novembre del 3 con Tittoni agli esteri, non sarà facile mantenere l'equilibrio tra l'intesa e la Triplice nel campo internazionale, tra i redentisti e fautori dell'alleanza col vicino orientale all'interno. L'atmosfera veniva inoltre inquinata da incidenti e da manifestazioni di piazza sempre più frequenti di entrambe le parti. Oltretutto le manifestazioni non sono più tacite presenze a discorsi pericolosi come nel caso di Salvis Doda, sono frasi pronunciate da altre personalità dello Stato, come avvenne il 27 luglio del 5, quando il Presidente della Camera Marcora pronunciò l'esplosiva frase «Trentino nostro», provocando un incidente diplomatico di primo ordine. D'altra parte, anche le manifestazioni anti-italiane in Austria non erano meno vivaci e talora addirittura violente, come quella avvenuta a Dispoli nel novembre del 3, quando fu impedita l'inaugurazione della Libera Università Italiana, oppure gli incidenti di Sushat nel novembre del 5, quando italiani reinicoli erano stati percossi da ginnasti serbi e croati. Non erano stati che pochi contusi, a differenza di Egmont, ma la stampa italiana aveva gonfiato l'incidente ed eccitato l'opinione pubblica. Sempre grave ed insolubile il problema di un'università italiana nella duplice monarchia, dato che dal 1866, dopo la riunione di Padova all'Italia, insieme con tutto il Veneto, i cittadini austro-ungarici di lingua italiana ne erano privi, il che costituiva tra l'altro una violazione delle leggi dell'impero. La facoltà giuridica creata ad Innsbruck era morta sul nascere, non era stata più sostituita. Tutto ciò suscitava conflitti all'interno dell'Austria e generava ripercussioni in Italia. Ma accanto a questi problemi di nazionalità si estendevano quelli nazionalistici. Tittoni contrastava vivamente un'espansione politica e commerciale austriaca nella penisola balcanica e con successo talora riuscì ad ottenere che a capo della gendarmeria internazionale in Macedonia fosse nominato un generale italiano nel 4, favorì la nostra penetrazione economica nel Montenegro, manovrò, ma la manovrò, perché da questo staterello la Serbia e la Bulgaria si creassero un'intesa, contrastò la politica di von Erenthal di allacciare le ferrovie austriache della Bosnia con quella serbe, il che avrebbe aperto Salonicco e l'Egeo alle esportazioni austriache ed avrebbe economicamente posto la Serbia nelle mani della duplice monarchia. E propose una ferrovia dall'Adriatico al Danubio che avrebbe invece favorito la penetrazione economica italiana nella Balcania e liberato la Serbia dalla dipendenza dell'Austria nel 7. Infine manovrò invano per far cadere l'accordo bilaterale austro-russo di Mostek e associarvi l'Italia. Scoppiò poco dopo la crisi provocata dall'annessione della Bosnia-Herzegovina, annessione in cui l'aspetto emotivo ebbe il sopravvento sulla Realpolitik. Infatti l'Austro-Ungheria, che abbandona l'occupazione del San Giacardo di Novi Bazar, importante cuneo incastrato tra Serbia e Montenegro, ed abbandonò il controllo delle coste montenegrine, gli fece un pessimo affare. L'Italia fu travolta da un'ondata sentimentale, vi vide conculcati i principi di nazionalità, si vide privata di compensi che non le spettavano e che di fatti non chiese, o quando li chiese e non li ottenne, erano puramente simbolici, la Basilica di Aquileia, o irrealizzabili il 448, l'Università in Lingua Italiana Trieste, e comunque, più che altro, tutti diretti a salvare la posizione politica di Tittoni. In realtà la questione non riguardava lei sola, pensi tutti i firmatari degli accordi di Berlino del 13 luglio 1878, che era la tesi inglese, e Tittoni, appoggiato da Fortis, che godeva ampia stima, lo mise in rilievo nelle discussioni avvenute alla Camera del dicembre dell'8. Ma tale avvenimento generò due conseguenze di carattere internazionale. Una fu l'accordo segreto con la Russia, con cui questa si impegnava ad appoggiare le aspirazioni italiane sulla Tripolitania e sulla Cirenaica, e l'Italia appoggiava l'eventuale apertura degli stretti alle navi da guerra russe, ed entrambe concordavano, in caso di mutamento dello statu quo, di favorire lo sviluppo degli stati balcanici. Siamo nell'ottobre del 9. L'altro fu l'accordo segreto con l'Austria-Ungheria nel 19 dicembre successivo, col quale questa potenza riconosceva il diritto dell'Italia ai compensi previsti dal Trattato della Trifice coloro avessero rioccupato il San Giacardo. In tal modo l'Italia proseguiva la sua politica, che era un miscuglio di principi di nazionalità e di nazionalismo. Ma le conseguenze più importanti ebbero luogo nell'interno del paese. Lo storico inglese Nemia ha scritto che, cito, la nascita di un nazionalismo patologico 10 o 15 anni dopo una sconfitta nazionale sembra essere un fenomeno periodico. E Croce, nella sua storia d'Italia, ha messo in luce il sorgere nella società italiana, e non solo italiana, di fermenti nuovi, agli inizi del secolo, che gli attribuisce alla decadenza del positivismo sotto i colpi del marxismo e del neo-hegelismo. Da questi fermenti si infiltrò, egli scrisse, uno stato d'animo torbido, travidità di godimenti, spirito d'avventure e di conquiste, frenetica smania di potenza affiorate dapprima in letteratura ed infiltratesi poi nella politica. Da queste correnti il nazionalismo, che filiato silenziosamente dal Carducci, alimentato da D'Annunzio e dalle riviste Leonardo il Regno, Leonardo e il Regno, apparse nel 3, dopo la crisi di Bosnia e dopo le relative delusioni per mancati ingrandimenti territoriali dell'Italia, sfociò nella creazione di un vero e proprio movimento politico, che tenne il suo primo congresso a Firenze nel dicembre del 10 e che ebbe come principale periodico l'Idea Nazionale, il cui primo numero apparve, e la data è significativa, il 1 marzo 1911, del 15° anniversario della battaglia di Adua. Ma il movimento ebbe due anime, una legata all'autentica tradizione risorgimentale, cappeggiata da Scipio Sigele, da cui aderivano Castellini ed Arcai, puntava sulla redenzione delle terre italiane ancora soggette all'Austria. L'altra, che considerava proprio capo spirituale il defunto Francesco Crispi, era invece colonialista ed era rappresentata da Enrico Corradini, il quale, introducendo il concetto marxista della lotta di classe nelle relazioni internazionali, parlò di lotta delle nazioni proletarie contro le nazioni capitaliste. E quindi anti-austriaca fu la prima corrente, antifrancese ed anti-inglese e moderatamente filo-tedesca la seconda. Nella vita dello Stato italiano per allora prevalse la seconda. Già dal 1907 il governo di Roma, con l'appoggio dei cattolici che entravano allora nella vita politica del paese, attirati da Giolitti, il quale voleva con loro aiuto riequilibrare l'avanzata del socialismo, aveva iniziato la penetrazione pacifica nei due vilayet di Tripoli e di Bengasi. Fu il Banco di Roma che si assunse l'oneroso compito di investire il proprio denaro in attività destinate ad essere finanziariamente passive, che furono anche politicamente controproducenti, perché il governo ottomano, allarmato dagli articoli che la stampa italiana pubblicava per preparare l'opinione pubblica, prese provvedimenti restrittivi alle iniziative italiane, mentre funzionari locali adottavano misure restrittive, talora vessatorie, nei confronti dell'attività dei cittadini del regno. Tutto ciò fornì il pretesto, quando la Francia invase il Marocco nel maggio dell'11 per aiutare il sultano contro tribù ribelli, per inviare il 28 settembre un brutale ultimatum all'impero ottomano, chiedendogli di lasciarci occupare Tripolitania e Cirenaica. Evidentemente il nuovo ministro degli esteri, il marchese di San Giuliano, di idee colonialiste fin dai tempi di Crispi, temeva di essere giocato dai francesi come era stato il Cairoli nel 1881 e che una volta ottenuto il Marocco, la Francia ci ostacolasse nella presa di possesso della parte a noi riservata dagli accordi del 1900 e del 1902. Vi era inoltre il timore diffuso, non so se fondato o no, che la Germania, giocata anch'essa dall'abilità dei francesi, i quali erano apertamente sostenuti dagli inglesi, si rifacesse facendosi cedere sotto una formula qualsiasi i due vilayet, cose che i turchi avrebbero forse fatto pur di non vederli cadere nelle mani dell'Italia. La guerra italo-turca fu in Italia assai popolare e venne appoggiata da una eterogenea maggioranza composta dalla destra liberale, dai socialisti riformisti, dai sindacalisti rivoluzionari, da una parte dei cattolici e anche da alcuni del movimento repubblicano. Al di fuori del Parlamento, naturalmente, fu osannata dai nazionalisti. Notevole che essa provocò un notevole spostamento nell'interno dei partiti e fu cantata ed esaltata dal D'Annunzio, che al tempo stesso però attaccava anche l'Austria, da Pascoli e da Anna Negri, questi ultimi due di matrice socialista. La difficoltà di colpire a morte la Turchia obbligò le forze armate italiane ad occupare il Dodecaneso, aprile-maggio del 12, ed in tal modo il nazionalismo trasse nuovo alimento dal ricordo delle repubbliche marinare italiane del Medioevo. Questa guerra, conclusasi nell'ottobre del 12, lasciò però insoddisfatti i nazionalisti, perché non si era conclusa brillantemente come essi speravano. Tuttavia ebbe un effetto moralmente eccitante, perché si diffuse l'idea che il nostro paese fosse capace di compiere ogni impresa, per quanto grande fosse, e si diffuse il culto della violenza. Rimase insoddisfatti una parte della sinistra, quella legata al puro principio di nazionalità con la testa Arcangelo Ghisleri, perché l'occupazione del Dodecaneso, da cui era facile capirlo l'Italia non si sarebbe ritirata tanto presto, violava la nazionalità ellenica, perché l'Italia si era ritirata dalla guerra proprio mentre gli stati balcanici attaccavano l'impero ottomano per realizzare la loro unità nazionale. Curiosamente, nel rimescolio provocato da questa guerra, i rapporti italo-austriaci uscirono momentaneamente rafforzati, non solo perché l'Austria ci aveva permesso di occupare le isole dell'Egeo senza chiederci i previsti compensi, ma anche per il confronto con l'atteggiamento della Francia, che sottomano aiutava i nostri nemici e pretese scuse ed indennità quando navi da guerra italiane fermarono 3 navi francesi che facevano contrabbando di armi ed armati a favore dei turchi. Contrabbando di armati, cioè della gente che fingeva di essere dei medici e dei militari. Il pacifico Giolitti, cui fu più tardi rinfacciato da aver dato innesco con la guerra alla Turchia alle crisi balcaniche, da cui vennero fuori poco dopo l'attentato di Sarajevo e la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia il 28 luglio del 14, in un discorso tenuto il 7 ottobre 1911 a Torino, giustificò l'aggressione con queste parole. Cito: la politica estera non può, come la politica interna, dipendere interamente dalla volontà del governo e del Parlamento, ma, per assoluta necessità, deve tenere conto di avvenimenti e di situazioni che non è in poter nostro di modificare e talora neanche di accelerare o ritardare. Vi sono fatti che si impongono con una vera fatalità storica, alla quale un popolo non può sottrarsi senza compromettere in modo irreparabile il suo avvenire. In tali momenti è dovere del governo di assumere tutte le responsabilità, poiché un'esitazione o un ritardo può segnare l'inizio della decadenza politica, producendo conseguenze che il popolo deplorerà per lunghi anni e talora per secoli. Chiude la citazione. È chiaro che, dato lo stato d'animo esistente da noi, l'acquisto del Marocco da parte francese aveva scatenato una rivoluzione in Italia, quando questa fosse rimasta una volta ancora a bocca asciutta. I rapporti con l'Austria migliorarono lì per lì sul terreno imperialistico. Essa riconobbe l'annessione della Libia, pochi giorni la firma del trattato di pace con la Turchia. Fu rinnovato il trattato della Triplice con 2 anni d'anticipo, e vi fu aggiunto un protocollo che includeva la nuova colonia italiana nei territori di cui il trattato garantiva lo status quo. Si ebbe una collaborazione concreta nel porre il veto allo sbocco della Serbia sull'Adriatico, a Durazzo, nel creare il nuovo Stato albanese da stabilire nelle frontiere e ad impedire la ventilata fusione del Montenegro con la Serbia, perché questa avrebbe ottenuto lo sbocco sull'Adriatico ad Antivari. Ma ben presto le 2 anime della politica estera italiana generarono nuove tensioni con l'alleato orientale. Quella nazionalistica fece sorgere un'acuta rivalità, dato che ognuna cercava di procurarsi maggiore influenza rispetto all'altra sul debole governo albanese del principe di Vid, e fece sì che l'Italia ostacolasse in ogni modo la cessione dell'Ovcen da parte del Montenegro all'Austria. Certamente lo stesso animus suggerì il veto italiano ad un ultimatum austriaco alla Serbia nel luglio del 13, quando la Bulgaria stava soccombendo sotto il contrattacco dei serbi e dei greci. Fu invece l'anima nazionale che vibrò di sdegno quando il 16 agosto del 13 il principe von Hohenlohe emanò i 4 decreti che escludevano dagli impieghi e dalle aziende municipalizzate della città gli italiani non aventi cittadinanza austriaca. Era nel suo pieno diritto il farlo, ma fu una mossa psicologicamente sbagliata. Lo fece perché l'irredentismo era in ripresa, ma i decreti, lungi dal soffocarlo, ne ravvivarono la fiamma. Siamo allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La neutralità, dichiarata dal governo italiano il 3 agosto, rispondeva ad un diritto datogli dal trattato, ma era soprattutto una mossa tattica per guadagnare tempo. Mai il governo di Roma pensò per un attimo di assecondare i 2 soci della Triplice. Il di San Giuliano, tanto a torto accusato dall'Albertini d'essere un triplicista, fino dall'11 agosto del 14, telegrafando ad Imperiale a Londra, elencava le richieste italiane per intervenire in guerra a fianco dell'Intesa, il Trentino sino al Vesuvio Alpino, il Trieste, e nel caso in cui la Turchia fosse intervenuta a fianco degli imperi centrali, una parte dell'Asia Minore, prospiciente il Mediterraneo in proporzione alla quota avuta da altre potenze. Inoltre concessioni economiche ad Adalia, nell'Asia Minore. È degno di osservazione il fatto che di San Giuliano si manteneva molto caldo nuovi motivi. In generale, l'indicazione Trieste era molto vaga. Le richieste dell'Oriente Mediterraneo erano subordinate a quelle. Le richieste aumentarono il 25 settembre, quando il di San Giuliano aggiunse alla lista Valona, in Albania, sollevò il problema delle isole dalmate, ampliò le aspirazioni italiane nelle Egee in Asia Minore, accennò a rettifiche a favore delle nostre colonie africane. Le aspirazioni nazionali cominciavano già ad essere soverchiate da quelle nazionalistiche, ma erano, almeno in parte, una risposta alle pretese serbe che, di cui il nostro ministro era venuto a conoscenza. Quando Sonnino prese le redini della politica estera italiana nel novembre del 14, le richieste da lui avanzate, e solo in parte ottenute, oltrepassavano il programma di realizzazione dell'unità nazionale e rientravano in una visione nazionalistica, Alto Adige, Istria, Dalmazia, parte dell'Albania e dell'Asia Minore, ampliamenti coloniali, eppure furono più tardi accusate di essere insufficienti, soprattutto sul piano coloniale e l'omissione di Fiume. E coloro che facevano tali accuse confrontavano le conquiste degli alleati dell'intesa con quelle italiane. La guerra mondiale, anche se aveva avuto spunti di nazionalità, quale la riunificazione degli slavi del sud o il ritorno della Sazia-Lorena alla Francia, in realtà era stata una guerra imperialistica, in cui i motivi nazionali passavano nel quadro generale in seconda linea. Era lo scontro del Hull Britannia col Deutschland über alles, del panslavismo col pangermanesimo, era un tentativo francese di acquistare la grandeur e la gloire perdute nel 70-71. L'Italia non aveva fatto altro che adeguarsi all'andazzo dei tempi e si trovarono pertanto fuori dalla realtà quegli interventisti idealisti, quali Albertini, Bissolati, Salvemini, i quali avrebbero voluto ridurre gli acquisti italiani a poco più di quanto l'Italia avrebbe ottenuto facendosi compensare la neutralità. Come si trovavano fuori dalla realtà coloro che avevano molte ambizioni ma non avevano saputo manovrare con sufficiente abilità e non avevano la possibilità di realizzarle con la forza. Concludo. La politica estera dell'Italia dopo l'unità seguì la regola generale di tutti i paesi che, risorti in base al principio di nazionalità, cadono poi ben presto nel nazionalismo. I motivi per l'Italia sono molteplici e non sempre del tutto chiari e coerenti. Oltre il mito di Roma, quelle cose che ho accennato prima, si parlò di tutela degli emigrati italiani all'estero, ma questo fu vero solo nel caso della Tunisia, che invece poi sfuggì al controllo italiano, di territori nei quali avviare gli emigranti, ma in realtà si furono scelti male, e di tentativi fatti nella colonia Eritrea dopo il 1890 furono molto modesti, di tutela degli interessi economici e finanziari, ma i sinceri furono troppo scarsi per giustificare tale sforzo, e talora, come nel caso della Tripolitania e della Cirenaica, furono artificiosamente creati per poterli poi proteggere, di necessità difensive per non essere strozzati dei propri mari, l'argomento adotto dal Cattaneo nel 62. Ma l'unico territorio che rispondeva a tale scopo, la Tunisia, ci sfuggì, e per l'Albania vi fu l'impossibilità di prenderla perché sarebbe stata l'Austro-Ungheria ad essere strozzata nel mare Adriatico. Praticamente, guardando le cose con distacco, si ha l'impressione che il nazionalismo e l'espansionismo italiano fossero dettati effettivamente da motivi strategici solo per quanto riguarda l'Alto Adige e la frontiera delle Alpi Giulie. Per il resto furono ispirati dalla retorica della missione civilizzatrice di Roma, dei ricordi della gloria delle repubbliche marinare del Medioevo, dalle citazioni dei noti versi di Dante, dalla qualifica datele di grande potenza e dalla smania di sentirsi veramente tale, al di là delle proprie possibilità economiche e finanziarie, e con l'appoggio di un'opinione pubblica incostante, pronta ad abbattersi al primo insuccesso militare. L'Italia del periodo esaminato presenta straordinarie somiglianze con la Spagna, e entrambe non ebbero la stoffa colonialistica ed imperialistica della Francia e dell'Inghilterra. L'asserzione che le imprese fossero compiute per distogliere il paese dai problemi interni o per la smania di gloria di qualche ministro, dall'esposizione fatta non sembrano corrispondere al vero. In realtà si potrebbe dire che l'Italia fu il primo di una serie di paesi che, raggiunta l'unità nazionale, Germania, Ungheria, Grecia, Jugoslavia, Polonia, Romania, Cecoslovacchia, cade fatalmente dal principio di nazionalità al nazionalismo. La realtà distrugge l'ideale. Come il demiurgo platonico non riuscì a realizzare nella materia la perfezione dei modelli esistenti nel mondo delle idee, così neppure i politici riuscirono a farlo anche se le intenzioni in partenza erano state pure. Sono molto grato all'amico di avere, dall'amico curato di avere dato questa veramente nutrita relazione, è vero, perché c'è stata una sintesi, anzi un'analisi della politica estera italiana che è veramente perfettamente, è vero. Anzi, questo sarà oggetto certamente di una discussione interessante, perché gli spunti per una discussione non mancano. Riterrei però che sia meglio, Prodi, cosa dici, di farlo pomeriggio la discussione? Mi pare che abbiamo già deciso. Come? Se ci sono chiarimenti o traduzioni, abbiamo ancora un quarto d'ora, 20 minuti. Dobbiamo provare? Sì, per guadagnare tempo. Non più di un quarto d'ora? O dobbiamo, per non interrompere la discussione, rinviarla al pomeriggio? Sì, parlare di traduzioni o di chiarimenti, non di vere e proprie discussioni. Di vere e proprie discussioni. Cosa dici? Sì, hai ragione, sarà meglio di spostare la discussione a questo punto. Come avevamo già detto. La discussione, ma lui dice eventuali... C'è qualcuno che ha bisogno di traduzioni? Eh sì, allora è meglio rimandare al pomeriggio una discussione che possiamo fare la relazione e poi la discussione delle due relazioni. Che ore abbiamo? Che orario abbiamo nel pomeriggio? Alle tre. Dalle tre alle? All'infinito. Siamo padroni di a mezzanotte? No, perché non sei. Si può andare a mangiare. Siamo alle 8. Alle 8. Finché si possa prendere l'autobus alle 6. Però si può prendere alle 6 e mezzo. Ecco, 6 e mezzo è l'ultimo auto. 6 e mezzo. Ho capito. Ci sono più tardi, pensavo all'autobus. Naturale. Bene. Non abbiamo che da ringraziare, è vero, e dirci arrivederci.